con la musicista Susanna Buffa, che sarà in concerto dal titolo Canti Resistenti, Musica per la Liberazione, all'interno del VI Festival Popolare Italiano, diretto da Stefano Saletti a Roma, al Teatro Villa Panfili, giovedì 25 aprile 2019, insieme a Vanessa Cremaschi e Giovanna Famulari. Susanna, ben trovata. Salve a tutti e grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ci racconti un po'? Diversi mesi fa Stefano Saletti, che dirige questo ormai sedimentato e radicato festival di musica popolare a Roma, mi ha proposto di preparare un programma di sola musica di resistenza partigiana per questo 25 aprile. Noi facciamo questo concerto, come sempre, per il Festival Popolare di mattina, all'interno del parco di Villa Panfili. E devo dire che l'idea lì per lì mi è piaciuta, ma mi ha anche un po' spaventato, perché mi sono anche chiesto se un programma di sola musica di resistenza partigiana potesse reggere poi un intero concerto, soprattutto al mattino, e tra l'altro in concomitanza con il corteo che partirà più o meno in quell'orario da Porto San Paolo. Poi però nel corso delle passate settimane, dei passati mesi, approfondendo anche un po' la ricerca su questo repertorio, mi sono accorta, ci siamo accorte, che in realtà regge benissimo, nel senso che è un repertorio che offre anche una grande varietà di forme musicali e stilistiche, quindi molto interessante, vario, ecco, vivace anche, perché poi insomma, portatore di grande vitalità, no? E quindi alla fine, ecco, insomma, questa paura è stata presto fugata e abbiamo messo su questo programma con l'aiuto di Vanessa Cremaschi e di Giovanna Famulari, che pure si sono appassionate allo suono da sempre in realtà a questa ricerca, a questo repertorio. E abbiamo messo su questo programma che domani proporremo a questo insolito pubblico mattutino del 25 aprile. È nato così. Quanti brani sono? Sono una quindicina di brani, per quanto piuttosto brevi, perché poi erano canzoni, a volte con melodie preesistenti, che venivano adattate a dei nuovi testi scritti appunto per l'occasione, scritti in quell'epoca o scritti immediatamente dopo. Ci sono tutti i brani di patrimonio dominio pubblico, quindi patrimonio della musica popolare, quindi di autori anonimi, e anche dei brani d'autore, perché poi quello che abbiamo scoperto è stato anche che molti intellettuali, nei passati decenni, molti grandi musicisti si sono cimentati nella scrittura di canti per la liberazione, per rievocare questa giornata importante, per rendere un tributo ai partigiani che si sono sacrificati per la nostra libertà. E quindi così abbiamo scoperto, ad esempio, che c'è una Gabriella Ferri con musica di Morricone, che ha scritto questo Via Rasella. Poi c'è addirittura Italo Calvino con Sergio Liberovici, che scrive le musiche per un brano che è veramente celebre, che è Oltre il Ponte. E poi abbiamo anche Fausto Amodei, che ha scritto una bellissima canzone per i morti di Reggio Emilia. E via così, insomma, c'è un Sergio Endrigo che non tutti si aspetterebbero, perché comunque da Sergio Endrigo magari ci si aspetta più facilmente musica di tema differente. In realtà poi Endrigo si è dedicato spesso a temi sociali, anche con risultati meravigliosi, oserei dire, come questa canzone che è La ballata dell'ex. E poi per il resto ci sono brani che appartengono al patrimonio della musica popolare italiana, di tutte le regioni, di tutti gli angoli d'Italia, ecco. Senti, a proposito, ecco, degli angoli d'Italia, ce ne sono alcune in dialetto? No, anche se alcuni di questi canti vanno eseguiti con un certo accento, ecco, ce ne sono alcuni che sono chiaramente nordici e che bisognerebbe eseguire seguendo quella fonetica. C'è poi, vabbè, il pezzo di Gabriella Ferri, In insomma, è un romanesco. brano, scusa, naturalmente romanesco, sì. Però per lo più sono scritti in italiano. Avevano poi, no, questo scopo di diffondere al massimo e nella maniera più capillare possibile il messaggio, quindi venivano scritti in italiano. Ne hai scoperto qualcuno che non conoscevi? Quello che ho citato, quello che non conoscevo, era quello di Sergio Endrigo, il brano dedicato ad un ex partigiano che purtroppo dopo 20 anni all'epoca dell'uscita della canzone tutti avevano dimenticato, cioè parla di come si sia dimenticato velocemente quanto i partigiani hanno fatto, e quindi si chiama ex proprio perché è un ex partigiano. Come sarà il concerto? Spiegherete anche i brani di volta in volta? Per la verità no, abbiamo deciso di parlare il meno possibile perché riteniamo che questi brani, intanto perché appunto come dicevamo non sono in dialetto e poi perché sono comunque dei testi veramente espliciti e chiari, riteniamo che non abbiano bisogno di presentazioni. Volevamo rimarcare il fatto che alcuni di essi fossero brani d'autore, questo sì, lo diremo quando sarà il caso, però per il resto cercheremo di parlare poco e suonare di più. È un'esperienza che replicherete, questa dei canti della Resistenza? Guarda, io spero veramente di sì, sia perché noi ci siamo impegnati, appassionati anche al lavoro su singoli pezzi, di arrangiamento, eccetera, e sia perché è un programma musicale che può essere riproposto anche in altri periodi dell'anno, perché comunque, anche visto il periodo che stiamo vivendo storicamente in questa nostra Italia, ci sarebbe bisogno di ricordare più spesso cosa si è fatto in passato per avere la libertà di cui godiamo oggi. E soprattutto io ho scoperto una cosa fondamentale, che è quella riguardante la prospettiva di questi giovani che allora combattevano per noi, cioè questa loro capacità di guardare non soltanto all'oggi, ma di guardare al futuro, che è una cosa che un po' a noi manca. Loro facevano quello che facevano a beneficio delle generazioni a venire, e questa è una cosa che noi non siamo più abituati a pensare, forse la facciamo, ma con meno consapevolezza. Ecco, questo è un aspetto importante di questo repertorio che bisogna rimarcare. Allora ricordiamo il concerto Canti Resistenti, musica per la liberazione, con Susanna Buffa, Vanessa Cremaschi, Giovanna Famulari, all'interno della sesta edizione del Festival Popolare Italiano diretto da Stefano Saletti a Roma, al Teatro Villa Panfili, giovedì 25 aprile 2019. Ore 11:30. Susanna, un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, buon ascolto e buon proseguimento.